questo rapporto abbiamo così misurato la qualità dello sviluppo nelle diverse regioni. È emerso che alcune regioni come il Trentino, il Friuli, Venezia Giulia sono i primi posti riguardo alla qualità dello sviluppo, altre regioni come la Sicilia e la Campania sono ai gradini più bassi e anche alcune regioni che hanno un prodotto interno lordo pro capite molto alto come la Lombardia e il Veneto in realtà si trovano a metà classifica. Questo è un dato interessante perché testimonia come non corrisponda a una qualità dello sviluppo, non corrisponda a una ricchezza pro capite una qualità dello sviluppo adeguata, diciamo, e comunque sia meccanicamente simile a quanto il reddito in qualche modo potrebbe far intendere. Questo rapporto sulla qualità regionale dello sviluppo va in parallelo con un altro rapporto, con un'altra ricerca che noi facciamo di solito, cioè solitamente facciamo in autunno quando si discute la legge finanziaria, che è il rapporto dell'altra finanziaria. Facciamo le critiche, le analisi dovute al testo della finanziaria che viene presentato dal governo e poi viene discusso in Parlamento, e presentiamo le nostre proposte alternative, entrando nel merito delle cifre. A partire dalle cifre che ci dà il governo cerchiamo di costruire un'ipotesi alternativa fondata su valori, ovviamente principi e obiettivi diversi, quindi la difesa del welfare, la riduzione delle spese militari, più fondi per la cooperazione e lo sviluppo, la cancellazione del debito, più interventi per lo sviluppo ambientale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che queste due iniziative, il rapporto sulla qualità regionale dello sviluppo, che è un focus sulle realtà locali, e il rapporto sulla finanziaria, che è sostanzialmente il principale strumento di analisi e di critica delle politiche economiche e finanziarie nazionali che il nostro paese si dà, costituiscono i due appuntamenti fondamentali di un lavoro fatto di osservazione e di produzione di alternative politiche, di politica economica e di un nuovo modello di sviluppo fondato su altri indicatori.